Salve cari amici di Ludico Forum e di Runtime Radio. Qualcuno di voi si sarà sicuramente accorto che durante questo ultimo periodo nel feed di Ludico Forum, per tutti coloro che sono rimasti abbonati, che non si sono disiscritti, stanno iniziando ad uscire una serie di puntate con la definizione di terza stagione. In realtà quello che sto cercando di fare in questo progetto, dato che magari non l'ho ben introdotto e magari non si era capito, o forse si era anche capito, era quello di raccogliere tutta una serie di contenuti che abbiamo comunque realizzato, che stiamo comunque realizzando e che non hanno magari non rientrano proprio nel tradizionale format del nostro podcast videoludico, ma che può essere comunque inserito all'interno di questo contenitore. Quindi Ludico Forum in questa terza stagione raccoglierà alcuni elementi che vengono da cose che sono state già realizzate, altre cose sono state realizzate magari per altri scopi e in altri contesti, e poi puntate specifiche comunque sempre nell'ambito della sperimentazione, magari dirette su YouTube che faremo relativamente a qualche gioco, o comunque magari cercando di fare dei discorsi in collettivo o in solitaria, cercando di non fare più comunque quello che era il format tradizionale del grande forum, cioè della grande talk show pieno di persone e via dicendo, anche se magari in qualche speciale possono succedere anche occasioni come queste. In questo specifico episodio iniziamo, oltre a le live che abbiamo fatto con Pixel Deb e a Michela Gioca Cose, iniziamo un terzo format, diciamo così, che è un progetto che ha fatto Francesco Di Muro, poi non so se continuerà a farlo, utilizzando Instagram come tipo di base, praticamente come strumento di divulgazione per lo streaming, che si intitolava Nelle cervella di un gamer. Questo progetto momentaneamente interrotto è molto interessante perché comunque cerca di creare un connubio, poi magari Francesco piano piano lo spiegherà nei vari episodi, tra psicologia, comunque scienze applicate al cervello, appunto, e mondo del videogame. Quante connessioni ci possono essere e quanto possa essere comunque funzionale considerare il videogame anche da un certo punto di vista. Oltre questo poi c'è anche un aspetto culturale, quindi praticamente il cercare di sostenere il videogame anche dal punto di vista culturale. Vedrete che poi sono delle puntate, saranno molto particolari, saranno molto interessanti, quindi questo connubio tra psicologia e insomma neuroscienze e videogame, insomma vedrete che sarà abbastanza interessante. Il primo episodio in questo caso, facciamo questo piccolo cappello, poi negli altri episodi vedrete insomma dal titolo dell'episodio che si tratterà di Nelle cervella di un gamer, però in questo primo episodio ho voluto fare questa intro anche per spiegare un po' quello che poteva essere il concetto. Nello specifico in questo primo episodio appunto ci sono io e parleremo di Disco Elysium, poi capirete insomma ascoltando l'episodio nel perché e del per come ne parliamo. L'unica cosa che dovete tenere in considerazione è che purtroppo essendo delle dirette Instagram la qualità dell'audio in generale è veramente abbastanza compromessa, diciamo così, dal fatto che appunto è stato utilizzato uno strumento che non è adeguato a farlo, con dei dispositivi che ovviamente non sono adeguati per fare questa cosa. Quindi c'è questa questione della connessione tra smartphone, dove magari ci sono dei rientri e dei ritorni, più la qualità è abbastanza degradata dell'audio. Se sopporterete ovviamente questo piccolo handicap d'ascolto, troverete queste puntate non interessanti ma veramente molto interessanti. Tra l'altro noi incentiviamo Francesco a continuare questo suo progetto, magari riorganizzarlo e utilizzare poi ovviamente i nostri canali di restream per poter ovviamente migliorare magari anche qualitativamente il discorso tecnico, in modo da poi portare in diretta, perché poi questo qua, questi sono progetti nati in diretta, anche perché comunque l'interazione magari è anche interessante e anche importante. Quindi Nelle cervella di un gamer 01, Disco Elysium, buon ascolto. Runtime Radio presenta Ludico Forum. Allora, finalmente partono ste direttucce, ste direttucole, come le vogliamo chiamare, gli appuntamenti più o meno quotidiani, voglio partire proprio con questo tipo di diretta, perché ripeto, ci saranno le chiacchiere con gli esperti, ma stasera si parla di giochi, stasera di giochi, anzi di un gioco con un giocatore. E in particolare quello che sto invitando adesso, tecnici soliti di queste dirette sono questi, parleremo di un gioco che, ma tanto io farò presentare a lui, cercherò di entrare nella cava dei gamer e io farò una capa tanto a chiedere, eccolo qua. Buonasera, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera signor Simone Pizzi. è un mio piacerone, cioè, facciamo solo sto cappello formale. Mio piacerone averti come primo invitato in diretta di questo format, che vedremo quanto andrà avanti. Comunque la tua diretta, la tua connessione sfarfalla un po', ti vedo spixellato, sei entrato troppo nel personaggio che si parla dei videogiochi qua. Di solito sono abituato che sei tu che presenti me, stavolta dopo circa 3-4 anni si è ribaltata la situazione, come mamma fa. Che brutta cosa. Simone, parla un po' di te, dai. Ogni tanto bisogna invertire i ruoli, no? Sennò che gusto c'è. Va bene. Simone, dai, presentati un po'. Chi cazzo sei, Simone? Parla un po' di te e di Runtime Radio soprattutto, vai. Vabbè, chi sono? Non penso che sia... non lo so, però... No, vabbè, infatti no. Diciamo che... No, infatti non è importante. No, infatti, diciamo che forse le cose più determinanti... il fatto che comunque da 10 anni bazzichiamo il mondo del podcast, abbiamo iniziato con una trasmissione con mia moglie e poi abbiamo esteso, diciamo, questa cosa ad altre trasmissioni, cominciato a parlare di videogiochi, della storia del computer, e da lì abbiamo costruito il primo network italiano di podcast, Italian Podcast Network, che oggi non esiste più, ma che vede la sua legacy, diciamo così, in Runtime Radio, che è questo progetto che è un po' radio e un po' podcast, cioè anzi prevalentemente è un insieme di podcast che diciamo rispondono a un solo editore, che è quello appunto Runtime Radio. Lo trovate su Spreaker, se su Spreaker cercate Runtime Radio ovviamente troverete tutti i vari podcast che facciamo. E poi da un po' di tempo a questa parte abbiamo anche messo su, da un po' di tempo, penso ormai su 2 o 3 anni, adesso io purtroppo ho dei problemi con la cognizione del tempo, quindi non so quando sono successe le cose. Questo è un problema magari che qualche tuo collega potrebbe risolvere. E... sì, non solo con la cognizione del tempo, anche con la connessione di nuovo, ma amen, ce la teniamo così, vediamo quello che riusciamo a fare, se muove, cioè non stare a scancherare, a spostare, a fare. L'idea è un pochino di sto format, diciamo, qual è? Che visto che quando si parla, diciamo che si invita gente che capisce uno, i tipi esperti, quello che è, sì, si fanno anche cose divulgative, anche cose, diciamo, utili alla gente, però io volevo proprio parlare con gente che gioca, diciamo, visto che nel mio canale professionalmente mi occupo un pochino dell'impatto del digitale che hanno sulle cervelle, però quel pallino ce l'ho sempre avuto un pochino per il videogioco, di che utilità possono avere i videogiochi alla capoccia della gente, sia a livello di benessere psicologico, sia a livello cognitivo, diciamo, più sul cognitivo in realtà. E mi ha abbandonato di nuovo Simone, però sta cambiando. Cioè, per chi si è connesso adesso, Simone ha un pochino di problemi tecnici con il wifi, quindi ritornerà fra poco, nel frattempo io lo invito. Dicevo, volevo fare un pochino questa diretta per proprio parlare proprio con i giocatori, vedere proprio e far capire magari a chi è un po' gnocco che con i videogiochi in realtà sono un'ottima risorsa, non solo di intrattenimento ma anche di benessere, anche, diciamo, un prodotto culturale che di tutto rispetto, insieme anche alla letteratura, fumetti, cinema, quel che è. Adesso vorrebbe andare abbastanza bene, solo che a un certo punto entrerà mia moglie col cane, via dicendo. Va bene così, noi ci piace proprio le cose, proprio ci piace entrare non solo nella testa delle persone, anche nelle case, diciamo. Nelle case della gente. Sì, stavo dicendo comunque Runtime Radio, che insomma da un po' di anni a questa parte è diventata anche una radio, dove durante l'arco della giornata trasmettiamo i podcast storici e o la mattina o la sera facciamo delle live con dei programmi dove c'è anche Francesco qualche volta. Ad esempio, venerdì sera alle 23 su runtimeradio.it c'è Runtime by Night, che è questo talk show, questa talk radio di notte, dove si inizia a parlare magari di un tema, poi si finisce. a parlare di merda, diciamolo. No? Sì, no, può essere una puntata serissima, poi può diventare una puntata dove escono le lacrime dalle risate, insomma, perché okay. Abbiamo fatto delle puntate di ogni genere. Cioè, se tu ti dicono che format è, non... Non ha un format. Ricordiamo che parla. È iniziato come autosollievo durante il lockdown, che ci venne da facciamo questa trasmissione di notte e poi un pochino ha continuato. Sì, guarda, ne parlavo proprio ieri con una persona che nonostante la tragedia, diciamo così, nel periodo del primo lockdown noi comunque abbiamo fatto un'esperienza bellissima, che è stata proprio quella della radio, perché ci ha permesso a noi di fare tante live, perché tanto eravamo a casa, e alle persone di ricevere comunque compagnia, sollievo, sai, anche risate, e si era creato comunque un bel ambiente, è stata una bella esperienza. Insomma, poi qualche cosa con il primo maggio che purtroppo è andata persa. Stavo dicendo esattamente quella fu proprio vera radio, cioè il picco più professionale che abbiamo avuto. Ma vabbè, andiamo per al succo, visto che già in chat Sociological Game ci ha chiesto: ma di che gioco parlate? Di che gioco parliamo? Sì, di che gioco vuoi parlare? Quindi? No, io sono stato invitato a parlare. Tra l'altro, siamo con la competenza anche molto relativa. Cos'è? Parliamo ma non di disco elite. Bisogno di competenza, perché comunque. Cioè, a noi non dobbiamo qua parlare. A noi ci fa schifo, cioè, ma la competenza. Viva la merda, come diceva René Ferretti. Esatto. Che te volevo dire? Qua si parla giusto di quello che ti ha lasciato, la tua esperienza, queste cose qua, le nostre esperienze da questo punto di vista. Perché anche a me, cioè, piacerebbe parlare di sto gioco, perché c'ha, nel suo piccolo, o meglio, nel suo grande, ci ha abbastanza segnato un pochino a tutti noi. Ci ha lasciato, cioè, quando è finito, diciamo, ci ha lasciato un buco dentro. Quindi, di che gioco si parla? Di? Sì, stiamo parlando di Disco Elysium. Disco Elysium. Elysium. Vogliamo presentare un pochino, detto... per chi non lo sapesse, Elysium. Elysium. Vabbè, diciamo, per chi non lo sapesse, che cacchio è sto gioco? Allora, è un gioco di ruolo, un pochino... Se vi ricordate i vecchi Baldur's Gate oppure i nuovi Pillars of Eternity, no Pillars, sì Pillars of Eternity, oppure che c'è più, come si chiama quella della... Planetscape Torment. I Divinity, sì questi qua. Quindi un videogioco di ruolo, diciamo vecchio stampo, un pochino quelli in visuale isometrica, però c'ha la particolarità, diciamo, che non dovrebbe essere la particolarità in realtà, c'ha la particolarità di essere forse l'esperienza più simile al gioco di ruolo dal vivo, cioè il gioco di ruolo da tavolo. Perché? Perché c'è stata davvero un'ampia, diciamo, capacità, diciamo, nei creatori di rendere possibile un casino di tipo di scelte diverse in base a tutte le caratteristiche possibili. E soprattutto c'è questa caratteristica che la distingue forse dalla stragrande maggioranza, e da, diciamo, una sorta di quasi di seguito, no, diciamo, di ispirazione spirituale nel quello che fu Planescape Torment, di essere un gioco non focalizzato sul combattimento. Però laddove Planescape Torment, essendo comunque un IP di Dungeons and Dragons, in qualche modo ce lo doveva mettere, fa schifo, ma ce l'ha dovuto mettere, questi hanno... Cioè, i creatori che si chiamano Zaum, che sono estoni, una sorta di collettivo centro culturale estone, che mo vabbè, l'hanno sciolto. Non ci focalizziamo sulle beghe che stanno subendo adesso. Sono da ancora più estranei, l'hanno totalmente eliminato il combattimento, se non, vabbè, non c'è un sistema di combattimento, è tutto estremamente narrativo ed interpretativo. Cioè, ti crei il personaggio che di base è un poliziotto in questo mondo simil, diciamo, come possiamo dire, molto realistico, però comunque non è la realtà, cioè molto simile, molta attinenza al mondo odierno, però comunque... lo potremmo definire, sì, una sorta di presente alternativo, diciamo uno steampunk, volendo un pochino, su alcune cose, le carrozze a motore che invece si chiamate macchine, su tutta una serie di cose di retrotecnologia, diciamo alternativa a quella che vediamo, insomma, fondamentalmente. Ma in realtà quella è una questione del background che è molto relativo, cioè poi alla fine, cioè è presente, è sicuramente essenziale, però non è quello, insomma, che crea poi la mitologia di questo gioco, che, come tu hai definito, io lo definirei completamente in un altro modo. Cioè, questo forse è la grande forza di questo gioco, che poi ognuno un po', diciamo, lo vede, lo interpreta un po' a modo suo. Per me è fondamentale. Allora, partiamo dal presupposto che, come dici tu, è un gioco di ruolo. È un gioco di ruolo come tu lo faresti sul tavolo con i tuoi amici, e questo è vero, proprio per l'estrema estensione del concetto ruolistico, sia interpretativo che dal punto di vista regolamentare. Cioè, quindi ogni evento, ogni situazione, ogni contesto che tu metti in azione è comunque fortemente condizionato dalle tue caratteristiche e dalla possibilità che hai di raggiungere il successo su determinate cose. Questa è una cosa importante. Alcuni lo hanno definito un po' una sorta di ibrido tra avventura grafica e gioco di ruolo. Io lo vedo un gioco narrativo totalmente sbilanciato sul concetto del gioco di ruolo, ma è comunque un ibrido, perché all'inizio non è facile riuscire a interpretarlo. Io non ci vedo un legame con Planescape Torment. Secondo me Disco Elysium sta oltre, molto oltre da questo punto di vista. Molto oltre, però gli autori, cioè, esplicitamente si sono ispirati, anche il font e simile, cioè la loro fonte di ispirazione proprio esplicita è stata proprio Planescape Torment, hanno estremizzato un pochino questo. Però la cosa che è brillante, nel senso, a parte il fatto che è un gioco particolare, bello, bellissimo, brutto, può piacere, non può piacere, a noi ci piace, anche se è abbastanza considerato abbastanza una pietra miliare, tutto sommato, la cosa particolare è che comunque sia dal punto di vista politico, sociale che psicologico c'ha degli spunti proprio a man basse proprio, cioè comunque essendo un gioco molto anche narrativo, molto basato sul testo, è quasi, cioè, a volte delle esclusivamente estremamente basato, anche se dal punto di vista grafico, cioè non è un'avventura testuale alla fine, dal punto di vista grafico non lo è, perché c'hai l'opportunità di i personaggi sono degli avatar che tu muovi all'interno del gioco, però poi in realtà il fulcro del gioco, l'80% del gioco è comunque la parte testuale. Sì, poi teniamo presente che ci sono alcune recensioni, ha detto il più bel gioco che abbia mai letto, proprio perché ci sono quasi 1,5 milioni di 1,2 milioni righe parole di testo, praticamente. È adeguato. Tra l'altro poi c'è questa introduzione da romanzo pulp, romanzo pulp pseudo fantascientifico e molto fantasioso, perché comunque c'è l'introduzione è folle, cioè nel senso follissimo, da subito perché la caratura di quello che comunque loro hanno voluto dare al personaggio principale e che poi dopo tu, diciamo, amplifichi, trasformi, migliori o peggiori a seconda di quello, diciamo, che diciamo, che col solito espediente della perdita di memoria, che lasciamo stare, è un cliché, sì, però i cliché non sono di per sé una cosa brutta, i cliché bisogna usarli bene, in questo senso. Diciamo, si parte, diciamo, un formato di video, perché si parte con un personaggio che ha già una sua storia, una sua caratterizzazione, che però ha subito una sorta di tabula rasa dopo 3 giorni di droga, sesso e rock and roll, praticamente, di estrema autodistruzione a base di alcol e droghe di ciascun tipo. Si trova praticamente, cioè, la partenza in una stanza d'albergo devastata, e lui in mutande con una bottiglia in mano, che si risveglia e non si ricorda un emerito cavolo. Quello che in neuropsicologia potremmo definire un'amnesia retrograda, sia semantica che episodica, sia dal punto di vista autobiografico, perché praticamente lui non ricorda più quello che ci ha avuto indietro, non ricorda più il suo passato, sia a livello di informazioni di che cos'è una caffettiera, per esempio, sia di chi sono io, sia di eventi, proprio tabula rasa. Poi col tempo, in base anche allo sviluppo, diciamo, del personaggio, la tabula rasa è relativa a informazioni strettamente personali che contestuali, cioè nel senso lui non conosce niente dell'aspetto sociopolitico del mondo che lo circonda, non ricorda neanche che cos'è lui, che lui è un poliziotto inviato lì a indagare su un omicidio. Esatto. Infatti quando gli dicono che è un poliziotto lui comincia a lucubrare su questo. Tra l'altro sì, è un cliché il discorso della perdita di memoria, ma secondo me non era neanche così necessario, quindi è proprio una scelta narrativa, cioè più che necessità ludica, perché non era poi così necessario estendere, ok, all'ennesima potenza questo tipo di concetto, se non per, ovviamente, come succede spesso nei giochi di ruolo, reperire informazioni che poi creano il codex, ma poi qui mi sa che manco c'è, tra l'altro, quindi aiuta, insomma, diciamo, al giocatore a entrare nel contesto. Però secondo me è proprio più che un semplice cliché che serve nella meccanica del gioco, secondo me è proprio una scelta narrativa che ci sta. A me poi, tra l'altro, non l'ho trovato per niente fastidioso, no. Anche perché poi dopo lui comunque, cioè poi la cosa insomma comunque c'è, cioè, un'evoluzione, non è che è ferma lì, cioè non è una cosa no assolutamente memoria, c'è molto c'è una sua evoluzione anche basata a come lo interpreti il personaggio, come lo, cioè potrai imparare, cioè col tempo potrai e lo vedo un ricostruirsi una propria identità davvero, sia dal punto di vista delle caratteristiche che ha, da anche come si presenta. Per esempio ci sono, diciamo, in base alle proprie scelte si può essere definito tipo il poliziotto dell'apocalisse, poliziotto, diciamo, che chiede sempre scusa, poliziotto dispiaciuto sorry cop, sì. In base a questo poi diciamo cambiano anche come ti percepiscono gli altri, come anche le posizioni, diciamo, politiche. Qui è molto, un pochino come tutto il resto, c'è, cioè un pochino una sorta di quasi parodia, diciamo, di alcune posizioni politiche dominanti del nostro mondo, per esempio fascismo, comunismo, che c'era poi ultraliberismo e c'è anche, diciamo, moralismo, che è un pochino, sì, moralismo, l'essere centrista, diciamo. Sì, poi comunque vede comunque l'umanesimo contestuale al moralismo. Allora, diciamo che è figa questa cosa perché è molto coraggiosa dal punto di vista narrativo in generale, ma lo è ancora di più in un videogioco dove il pubblico comunque, a parte, allora diciamo che è un gioco meraviglioso, ma non è un gioco per tutti, cioè, ma non, sì, con questo non è vogliamo fare i snob del cazzo che dicono no. Non puoi giocare a questo gioco, è che non è un gioco per tutti, perché secondo me chi ha, diciamo, radicato un certo tipo di concetto di videogioco, secondo me cioè secondo me comunque lo spiazza inevitabilmente. Ho sentito tantissime persone di ma io mi sono annoiato, no? Ma è chiaro, perché secondo me è proprio il modo in cui tu ti approcci a questo gioco, se sei consapevole, se hai già intuito in partenza di che cosa stai parlando, questo ti aiuta moltissimo, no? Ed è tra l'altro forse uno dei motivi per cui io mi sono innamorato di questo gioco prima ancora di conoscerlo a fondo. Quindi sono due le folgorazioni. Uno è proprio dovuto al fatto che questa meccanica di gioco era proprio quello che io negli anni ho sempre, diciamo, desiderato di affrontare una volta, perché per me i giochi narrativi sono, in questo momento della mia esistenza, sono il non plus ultra di quello che io gioco. Ma contestualizzare la narrazione, quindi il tuo intervento, la narrazione, con elementi ruolistici, poi tra l'altro non sta scritto da nessuna parte che un gioco di ruolo deve essere un gioco di combattimento, cioè infatti, un gioco di ruolo diventa un gioco di combattimento perché comunque quel certo tipo di publisher magari ha scelto di renderlo più avvincente, quindi nasce con Dungeons and Dragons questa cosa. Ma io posso fare una storia di investigazione poliziesca dove all'interno della storia magari c'è una sola, unica sparatoria, non è che stanno sempre a spararsi ogni 10 secondi, capito? Quindi in realtà, ecco, partendo da questo presupposto, tu capisci che intervieni nella narrazione a secondo delle tue caratteristiche, delle potenzialità e anche della statistica, che è una cosa importante. E questo è una cosa che a me è piaciuta, perché ho visto che ultimamente, anche prima del Disco Elysium, questa cosa sta iniziando un po' piano piano ad entrare nei giochi narrativi. Disco Elysium prende questo concetto e lo estende all'ennesima potenza, cioè lo radicalizza in un format che è preciso, perché dopo che hai capito, tu hai capito, il gioco è quello, è solo quello, cioè non è che è. E poi chiaramente la storia, il personaggio, i personaggi, il fatto che tu questo personaggio resettato, tra virgolette, può arrivare alla redenzione, così come può arrivare alla distruzione. E non è A o B. È con tutte le vie di mezzo, sì, con milioni di sfumature che ci stanno in mezzo, che a un certo punto dici, cazzo, si può dire, si può dire cazzo qua. Posso dire cazzo, sì, dici. Si può dire culo? Vai. No, scusa. Infatti, questa è la cosa interessante, perché comunque nell'ampia gamma, diciamo, di scelte, di sfumature che gli puoi dare, sia partendo dalle caratteristiche, ma ci soffermiamo anche a queste caratteristiche che interessano anche dal punto di vista psicologico, andremo a capire perché proprio le caratteristiche interessano da questo punto di vista. Anche questo è un altro elemento di ultra originalità. Però a parte questo, diciamo, tu con le ampie gamme di parametri, di scelte, di sfumature che gli puoi dare, la cosa interessante è che una persona, diciamo, può giocarci e può farci davvero può scegliere davvero di essere magari una persona simile in qualche modo a quella che è se stessa nella realtà, più o meno, oppure diciamo empatizzare con la storia di questo povero Cristo e cercare di dargli una svolta, diciamo, cercare di capire diciamo anche cosa gli viene richiesto anche dalle altre persone, se accettare un pochino adeguarsi un pochino a quello che viene richiesto dagli altri, oppure partire totalmente per la tangente. È praticamente quasi un character study, proprio uno studio proprio sul protagonista estremo, perché è vero che controlleremo soprattutto il personaggio principale, che all'inizio non ha nome, poi la cosa bella è che dopo viene svelato qual è il nome, non è che fosse chissà che elemento di spoiler, semplicemente si scopre qual è il nome, però il personaggio tu puoi tranquillamente scegliere di ignorare che quello è il tuo nome, continuare a chiamarti un altro modo, per esempio c'era uno di default, cioè la scelta di quando non sai il nome, tipo Aloysius Ambrosius Custo, un nome proprio di un'altisonanza. Poi si scoprirà che in realtà varie persone che hanno assistito alle tue peripezie, diciamo, ti conoscono con altri nomi in qualche modo, e tu puoi scegliere comunque se identificarti con quello o meno, oppure crearti proprio un altro tipo di identità. Quindi comunque c'è un senso quasi di trasformativo in qualche modo, perché spesso una cosa si dice che la gente non cambia, non può cambiare, è relativamente falso, diciamo, o meglio è vero, perché comunque c'è, però diciamo spesso da alcune proprie situazioni, alcune proprie difficoltà, da alcune proprie caratteristiche, magari da alcuni propri limiti, in qualche modo c'è sempre un'opportunità, diciamo, dà un pochino una speranza, nel senso che è vero che in qualche modo sono costruito in qualche modo, ma d'ora in poi un certo destino, se mi ci impegno, se mi lascio travolgere alcuni tipi di esperienza, li posso, diciamo, posso comunque modificare, diciamo. E da questo punto di vista a me mi serve, per esempio, nel lavoro far capire, diciamo, cioè far immergere, per esempio, è vero che non sarebbe per pochi, non sarebbe per molti, è vero, cioè, non sarebbe il gioco che direi a una persona che non ha giocato ai videogiochi: te gioca questo, così capisci il potere trasformativo, diciamo. Anche perché è pure lungo, oltretutto, insomma. Sì, relativamente lungo, relativamente stancante. Comunque questo fatto comunque di poter creare proprio, di poter creare la tua personalità quasi da capo è qualcosa che anche negli altri giochi in cui sono iperpersonalizzabili, magari hanno molte opzioni di personalizzazione, per me non riescono a raggiungere un livello come proprio il disco Elysium, a partire proprio dalle caratteristiche che introduco questa cosa. Di solito nei giochi di ruolo c'hai le solite caratteristiche / abilità che sono, non dico o attive o passive, comunque stanno lì e sono dei punteggi che di solito più è elevata quella caratteristica, forza, intelligenza, destrezza, queste sono le solite pure. Questa volta invece la particolarità è che ci sono 24 caratteristiche, o meglio ci sono 4 caratteristiche a cui ci sono diverse abilità, per esempio c'è l'intelletto, c'è la capacità di ragionare in qualche modo, la psiche che è simile all'intelletto, però più la parte, diciamo, di empatia e di altro, il fisico, diciamo, è anche il motorics, cioè diciamo l'agilità, diciamo così, quindi tutte caratteristiche psicofisiche a cui ognuna di queste ci sono delle sottoabilità, e queste sottoabilità non sono dei semplici punteggi che ti permettono di superare quella prova, di avere più successo se per esempio c'è un'abilità di una prova di logica, più hai il punteggio. Queste abilità parlano. Beh sì, io questa cosa l'avevo accennata un po' all'inizio, perché chiaramente questo gioco, che è un viaggio nella follia poi fondamentalmente in qualche maniera, inizia con questi dialoghi metafisici, no? Che poi in realtà sono elementi della sua personalità che parlano in qualche maniera, no? Sì, c'è il cervello rettiliano, il lobolistico. La mente rettiliana, c'è il lobolistico. Aspetta, come si chiama? Sì, insomma, vabbè. Comunque sono tutti elementi che sono elementi, diciamo, di base, quindi sono questi due elementi che contrastano sempre dentro lui. E poi, come hai detto tu, in realtà ci sono tutti gli altri elementi e tutte le altre prerogative passive e attive che comunque in qualche maniera interagiscono col personaggio, oltre agli oggetti, perché lui comunque, vabbè, è difficile riuscire a spiegarlo magari in breve tempo. La cosa bella, e ritorno un po' a quello che dicevi te sulla la creazione, tra virgolette, del personaggio, e che invece di basarsi su dei stereotipi generali, razziali o tipologici, diciamo che qui la cosa è molto più realistica, si basa su comunque questi quattro elementi con i quali tu costruisci quello che sarà l'andamento del personaggio più che il personaggio in sé, perché poi comunque il personaggio, come abbiamo detto, lo sviluppiamo o diciamo accondiscendendo alla triste, amara ironia del gioco, e quindi facendo questo viaggio che un po' il gioco vorrebbe, no? Quasi accompagnarti verso l'oblio, no? Verso la fine, oppure va le varie sfumature di mezzo, oppure come ho provato a fare io, se anche spoilerare, insomma, un po' così, c'è anche l'opportunità, insomma, di avere un finale che, tra virgolette, possiamo considerarlo un finale buono, insomma, diciamo così. Redenzione quasi la redenzione. Cercare di mettersi sulla retta strada, fare in le qualche cose. Maniera viene riaccettato o fa del tutto per essere comunque riaccettato nel suo contesto, pur avendo tutti i suoi passaggi di mezzo, e queste prerogative, ecco, questi elementi, insomma, con i quali costruisce il personaggio sono interessanti, perché quindi intelligenza, psicologia, logica, ce li ho qui, retorica, dramma, concettualizzazione, calcolo visivo, l'empatia. Okay, allora, diciamo che poi alcune rientrano, però le quattro principali sono, mi pare, se non sbaglio, intelligenza, psicologia. Sì, psicologia, fisico e agilità. Fisicità e agilità. Allora, l'unica cosa che non condivido è questa netta distinzione tra intelligenza e psicologia, che ci sta, perché in psicologia rientrano tutti gli aspetti, diciamo, dell'osservazione e dell'empatia nei confronti degli altri. E sì, di quanto si può essere, che ne so, persuasivi nei confronti degli altri, quanto si può essere, ma anche percettivi, no, nei confronti, diciamo. Cioè, tutto il discorso anche dell'empatia e via dicendo, mentre che su intelligenza ricade anche la cultura, quindi l'enciclopedia, no, cioè il fatto di sapere o non sapere determinate cose, ecco, la memoria semantica chiameremo, sì. Cioè, diciamo che questa cosa, ma questa così netta separazione, ma perché tu puoi essere una mente super sopraffina e dal punto di vista percettivo riuscire a comprendere al 100% le persone dal punto di vista psicologico, però è non essere illogico, diciamo, essere stupido come un babbuino, e questo secondo me in qualche maniera è l'unica cosa che ho trovato contrastante, al di là dei magari piccoli elementi, piccoli errori, piccole cose che ci stanno. Però ecco, questa è la cosa bella, perché tu comunque costruisci il personaggio a secondo di quelle che sono determinate caratteristiche, e mai, questa è la cosa importante, arriverai a pareggiare gli elementi. Questa è una cosa, perché su tante cose, l'altro gioco che io considero in assoluto il gioco che ha lasciato il vuoto più grande dentro di me quando ho smesso di giocarlo, che è Fallout 3. Con Fallout 3 però tu arrivi a un punto in cui sei top su tutto, ok? Sì, diventi un supereroe. Questo su Disco Elysium non è assolutamente fattibile. Cioè, su Disco Elysium tu comunque prendi una strada e devi cercare di sviluppare quella strada, perché se vai troppo random nel modo in cui sviluppi il personaggio, poi difficilmente riuscirai a fare tante cose che sono comunque determinanti. E poi io comunque qualche cosa me la so anche lasciata dietro, cioè nel senso, completare il gioco in senso assoluto è assolutamente complicato, ma soprattutto secondo me questo, come dice anche Francesco, anche se purtroppo questo non rientra nella mia natura delle cose, secondo me il gioco per essere compreso andrebbe rigiocato altre due o tre volte, anche se a distanza dei mesi, perché quando lo finisci il gioco t'ha stancato, non nel senso che palle il gioco, t'ha stancato perché t'ha levato comunque le energie in qualche maniera, perché ci sei entrato dentro. Cioè, secondo me questo è veramente un capolavoro da questo punto di vista, perché narrativamente è immenso ed è bellissimo, ma è talmente credibile nella sua narrazione e anche nella devastazione, nella sua parte Bukowski, diciamo così, che alla fine comunque alla fine ti immergi, ti immedesimi, e quando hai finito è come hai fatto una settimana di Covid, la stessa cosa. Da svuotare. A proposito, ti ha svuotato, ti ha spompato, sì. Infatti, poi la cosa interessante è che questa è forse la prima volta che la vedo, almeno in un videogioco, poi sicuramente ci saranno giochi sicuramente non originalissimi, però comunque inusuali, il fatto è che comunque di solito nei giochi di ruolo, oppure nei videogiochi in generale, quando potenzi un'abilità, cioè era detto, quando potenzi un'abilità diventi più forte in quell'abilità e basta. Invece qua potenziare un'abilità c'ha anche i suoi effetti controproducenti, perché diciamolo, una cosa forse non è stata chiara, le varie abilità logiche in CPLD, cioè non sono la passive, cioè ci parlano praticamente, quando siamo nei dialoghi si scontrano anche l'uno con l'altro, ad esempio l'empatia può essere, può dire ma dai sto poraccio, non spingere più di tanto, invece l'autorità vuol dire ma no dai fai vedere che, chi è che comanda, per esempio può scontrarsi, si scontrano con l'altro e noi li sentiamo, cioè li vediamo e sono anche doppiati questi dialoghi interni che alcuni hanno definito come il fatto diciamo che la mente del protagonista sta andando per la quale, invece per me no, per me non è il fatto che il protagonista ha multiple personalità, è semplicemente ha cercato di dare voce a tutti diciamo i vari pezzi di algoritmo che noi di volta in volta utilizziamo per prendere una decisione, per prendere delle decisioni, qualcosa. Diciamo ogni volta questi qua ti dicono, ti danno dei suggerimenti in base anche a quanto sono diciamo elevate, per esempio l'empatia sì, ti può essere utile per capire comunque, per entrare nei panni emotivamente delle persone, capire quello che ti possono trasmettere, quello che stanno provando, però se è troppo elevata si finisce con l'essere estremamente proprio cioè nell'entrare troppo in quella persona, infatti ti può diciamo diventi più affinato, però per esempio con l'empatia, però ti può suggerire delle cose sbagliate, per esempio proprio perché questo è un elemento interessante, beh, al di là del discorso del fatto che lui sente, no, queste, quindi, e a volte gli risponde, no, anche, no? Cioè, nel senso, ci sta anche l'aspetto della follia, no? A un certo modo è una follia più derivativa dal fatto che lui comunque viene da dei postumi, cioè, nel senso, lui è spaccato nel momento in cui ha fatto questa storia, completamente spaccato, sia mentalmente che fisicamente, no? E quindi ci sta anche, e questi elementi che dici tu, a seconda di come poi li sviluppi, ovviamente tenderanno a prendere una posizione nei confronti delle cose che tu devi fare, e poi sta lì, quindi c'è il doppio gioco su questa cosa, sta lì anche a tempo a capire se è il momento giusto di dare retta a quell'elemento che tu hai sviluppato in quella maniera, piuttosto che non farlo, perché non sempre il suggerimento che ti arriva anche dalle specifiche più positive, tipo empatia stessa, no? Cioè non sempre che comunque il suggerimento è migliore di elettrochimica, no, che invece è la parte più primordiale, quella che vorrebbe drogarsi in continuazione, che vorrebbe bere qualsiasi cosa alla pozzanghera. Di solito elettrochimica si contrasta con volizione, cioè con autocontrollo. Volizione sarebbe un pochino autorità, anche con l'autorità. L'autorità è più quanto sei autorevole nei confronti delle persone, quanto vuoi far sentire la tua voce. Invece volition c'è l'abolizione, c'è l'autocontrollo, e quanto puoi controllare i tuoi impulsi, diciamo, quanto può essere disciplinato. Infatti io, una delle abilità che ho pompato di più con l'essere fin troppo disciplinato, capito? L'essere eccessivamente eccesso in qualcosa è anche un guasto, anche in queste diciamo caratteristiche, come detto, positive, come cioè chi non vorrebbe essere controllare in modo di essere iperdisciplinato, oppure iperempatico, oppure iperautoritario, oppure l'altra caratteristica che l'impero della mente, con cui proprio ti trovi a parlare con gli oggetti, con i cadaveri della gente, praticamente questa è un'altra cosa. Con i cadaveri, con la cravatta. La cravatta orribile, orrorifico, come cavolo sia. Altro elemento psicologico, oltre quindi all'abilità che quindi ci dicono tutto questo, ci informano, c'è anche l'armadio della mente, dei pensieri, il thought cabinet, che tu ci hai messo un po' a capire come funzionava. Sì, ma in realtà non sono convinto di averlo capito fino in fondo, e questo, allora, faccio la premessa, io il gioco purtroppo, secondo me, ho perso una buona parte della qualità tecnica complessiva del gioco, perché io il gioco in inglese, nella lingua originale, in quell'inglese così articolato, così strutturato, a volte anche complesso, non l'avrei mai non l'avrei mai giocato se non fosse stata per la traduzione italiana, che non è una vera traduzione italiana, ma è una traduzione italiana fatta da un software tramite intelligenza artificiale, che ho trovato comunque un ottimo lavoro da un certo punto di vista, pur riconoscendo, mentre che leggevi, tutti i suoi limiti, no? Però quando trovavi i limiti, immaginando come poteva essere in inglese un certo tipo di contesto, un certo tipo di frase, te la rielaboravi un po' nel tuo cervello. Quindi magari ho perso la qualità della scrittura, magari a volte erano i pronomi erano un po' a cazzo di cane, però insomma poi alla fine comunque secondo me il gioco me lo so comunque goduto, anche se probabilmente non come se lo sarebbe potuto godere, perché ho dovuto fare anche uno sforzo in più di interpretazione di determinati passaggi. E sì, questa cosa l'armadio dei pensieri, sì, adesso non è come ricordo come si chiama, devo dire la verità, non soltanto l'ho sviluppata, ma un po' molto random, e comunque non mi ha aggiunto, cioè non avendo capito come funzionava non mi ha né aggiunto né levato al gioco, cioè al gioco lo fai lo stesso, capito? Sì, per dire che comunque è molto flessibile il gioco, tu puoi quasi ignorare questa caratteristica che in realtà gli sviluppatori ci hanno investito tantissimo, e quasi stava diventando una cosa così complessa che quasi stava facendo fallire tutta la realizzazione del gioco, ci hanno investito tantissimo. Che volendo riassumere, diciamo, che cos'è, come nei giochi di ruolo c'è l'inventario con cui quelle robe che indossi, che equipaggi, qui equipaggi dei pensieri in qualche modo, equipaggi anche le robe, però in più equipaggi dei pensieri che di volta in volta nei dialoghi oppure mentre esplori, comunque anche random, anche aumentando alcune caratteristiche, ti vengono in mente questi pensieri che tu puoi decidere di investire, di sviluppare, di pensarci su, e mentre ci pensi su ti dà un malus, quasi sempre ti dà un malus in alcune caratteristiche, sì. E quando ci hai finito di pensarci su, che c'è un tempo definito, alcuni pensieri ci possono mettere alcuni minuti, altre ore, altri giorni, diciamo, nel gioco, in qualche modo si risolve, come se avendoci meditato in background poi si sblocca, arriva una soluzione, arriva di interiorizzare quel sistema di valori, quel particolare ragionamento che stai facendo, e non solo ti influenza le caratteristiche, ma ti influenza anche, diciamo, i dialoghi alla fine. Quindi ci sono pensieri, per esempio, sul comunismo, per esempio, sul come si chiama la socioeconomia mazoviana. Sì. Pensiere su, che ne so, il ultrafemminismo, anche. Ma in realtà anche ce n'è uno sì, abbastanza topico sul razzismo, che è fondamentale per sì, passare a un determinato punto, ma qui ti fa capire anche la grandezza del suo gioco, che comunque non vuoi o non vuoi, in un modo o nell'altro, puoi trovare la soluzione anche senza questo tipo di interiorizzazione del pensiero. Certo, è più difficile, no? Per qualche maniera, però il gioco non si blocca mai, questo è importante. Sì. Perché se tu fossi di fronte a un master reale, umano, comunque ti stimolerebbe al problem solving, e quindi comunque in qualche maniera lo risolveresti il problema, o quantomeno c'è un'alternativa in base a meno che non caschi nel burone e sei morto, diciamo che c'è sempre c'è l'elasticità ad un master, sta in questo, e questo gioco secondo me ce l'ha, insomma, da questo punto di vista è abbastanza interessante. Andiamo non alle conclusioni, però avviciniamoci alla parte un pochino finale. A te, Luce, scusate, Luce, vedo la gente scema. A te sto gioco, comunque, che ti ha lasciato questo gioco? Come ho detto a te il giorno dopo, se no il giorno stesso, come un qualcosa che in qualche maniera tu in quel momento lo stai vivendo, e quando l'hai finito di vivere, guarda, faccio un paragone con le sigarette. Okay. E questo secondo me è la tossicità di questo gioco, perché parlando anche di quel tipo di temi, quindi di fumo, di alcol, di dipendenza in generale, no? Ecco, quando io ho smesso di fumare c'è la mancanza fisica della sigaretta, okay? Non solo psicologica, cioè psicologica sicuramente, perché è una dipendenza. Ma per me è la stessa cosa, nel mio modello psicofile c'è la stessa cosa, sì, psicologico, nel senso, comunque alla fine è come una parte del tuo corpo che in qualche maniera è stata estrapolata, no? In qualche maniera, ecco, ovviamente non a questo livello, però la sensazione di quell'ombra, un'ombra strana, un piccolo vuoto, no, che ha lasciato, ma è anche in senso positivo, perché vuol dire che comunque in quel momento quel vuoto lo riempiva bene, ed è stata questa l'esperienza forse più bella, oltre al fatto che ha realizzato un sogno, che era quello appunto di affrontare delle narrazioni secondo dei criteri molto più articolati del semplice vado a destra, vado a sinistra, dove comunque poi le cose si risolvono in qualche maniera da sole, e soprattutto perché comunque se fosse stato un romanzo sarebbe stato un gran romanzo, forse, secondo me, proprio perché, e forse il fatto che era interattivo in qualche maniera lo ha reso, e poi il carisma del personaggio, cioè non è facile, cioè è difficile stare a capire che cosa veramente ti ha colpito veramente di questo gioco, al di là del fatto che mi è piaciuto, no? Perché comunque sono tutta una serie di determinate cose. La carisma del personaggio, cioè come un personaggio che in teoria è un non personaggio, no, in realtà il personaggio non solo è un personaggio, ma c'ha il suo carisma, poi tu nel tuo empatizzare con lui, nel suo tuo accompagnarlo, un po' lo interpreti, un po' lo accompagni, cioè tu sei, sì, sì, interprete, ma sei anche spettatore, cioè nel senso sei quello che legge la storia di questa persona e quasi un po' l'aiuti a migliorare o a peggiorare, anche perché, e poi anche fare del tuo peggio, insomma, con questo personaggio, anche nei confronti delle situazioni che lui può fare, no? Anche nei confronti, sì, nei confronti del collega Kim Kitsuragi, che in realtà è il poliziotto un pochino, diciamo, che vuole fare un pochino le cose fatte bene, rigorose e tutto, un pochino l'altra parte, diciamo l'altra faccia della medaglia, in qualche modo quasi il contrario di quello che dovrebbe essere il personaggio all'inizio, tutto rigoroso, serio, che in realtà, diciamo, vedi questi due che in realtà, cioè, non li vedresti mai insieme, però anche in realtà in base alle scelte che fai e tutto possono diventare, non dico migliori amici, però persone, cioè arriva a fidarti di te in una maniera spropositata se ti fai delle scelte. Diciamo che nella mia esperienza lui non condivideva molto di quello che facevo e di quello che dicevo, chiaramente, però ciò nonostante avevi comunque questa ascendente verso lui, comunque lui ti stimava. No, certo, sì, in qualche modo sì, ti stimavo. Diciamo che dopo l'evento importante che succede verso la fine del gioco, diciamo così, ho avuto la sensazione che poi lui manda, cioè, diciamo che poi alla fine lui comunque di te non si fida come non si fida più nessuno, no? Quindi ecco, per me la parte finale è stata quella più difficile, perché poi lui comunque il mio personaggio voleva uscire da tutta sta follia, anche se poi non ci riusciva completamente, perché anche nel momento in cui cercava di, diciamo, affronta questo processo finale, tra virgolette, anche lì ogni tanto c'aveva le sboccate da matto sue, capito? Quindi, cioè, questo lo rende credibile, perché non era possibile che questo improvvisamente diventava l'uomo integerrimo che voleva dire. Cioè, lui, l'insetto fantastico, l'ha visto, ok? L'ha visto? Punto di domanda. Ma lui l'ha visto, cioè lui... quando fa accenno di questa cosa, tutti dicono non parlare questa cosa, no, sei matto, basta, non sei inaffidabile, non è possibile. Lui magari capisce che, però lui l'ha visto, cioè, e questa è la cosa, forse è la cosa più bella, che tu puoi farlo scendere anche alla fine, anche quando magari hai risalito, puoi continuare a farlo riscendere, oppure puoi capire che per arrivare a quel risultato tu devi mettere da parte una cosa che per te in quel momento è vera. Cioè, lui dice sì, dai, è tutto a posto, dai, torniamo tutti alla centrale che vedrai che ritornerà tutto a posto, ma nella sua mente è andando a cercare la vecchia e il vecchio per dire che comunque lui l'insetto fantastico l'ha visto, c'è cazzo da fare. Quello è il momento più poetico e incredibile di tutto il gioco, cioè una cosa incredibile, che poi se tu pensi, dice, vabbè, ma se potrà essere sconclusionata, no? Perché è come se tu vai a mettere un elemento paranormale all'interno di un gioco, poi tu lo sai, io queste cose le odio, no? Nel senso, quando tu magari sembra che nei videogiochi non puoi non tipo mettere... The Council tu ce l'hai particolarmente con The Council, sì, no, The Council, ma in realtà ce ne sono tanti, i giochi che comunque hanno questo approccio serio, narrativo, e poi a un certo punto qui il contesto ci sta, perché quel pezzo, quella parte suo rapporto con Kuno, il ragazzino padre. C'è una poesia incredibile là su quella storia là. Perché poi loro due sono testimoni di una cosa nella quale nessuno ci crederà ed è inutile sta a discutere su questa cosa, perché è una cosa che diventa loro quasi, quindi diventerà uno scambio, una cosa intima loro che condivideranno solo fra di loro, perché tutto il resto del mondo non lo può capire. È bello quel pezzo, è proprio bello. Sì, questo è un elemento forse estremizzato, poi dico il fatto che comunque sto gioco, oltre ad essere flessibile e tutto, cioè comunque è realistico in queste cose, nel senso che niente, vabbè, si parla molto del fatto che le cose sono grigie, non sono né bianco né nero, sì, va bene, però in questo modo c'è, cioè, davvero il fatto che dà dignità a qualsiasi tipo di sfumatura, è comunque una cosa non esclude, una strada non esclude mai l'altra fino alla fine, comunque è una cosa che comunque ti fa davvero provare, proprio davvero empatiti, fa davvero entrare in questo gioco, anche se non è immersivo, cioè un gioco in visuale isometrica alla fine, anche con una grafica molto bella, molto artistica, molto quasi come se fosse un quadro, praticamente molto accorrelloso. Comunque visivamente fa il suo, perché è quello che deve fare. No. Sì. Anche in virtù di questo, comunque è una cosa che ti fa immergere e ti fa vedere comunque perché tutte quello che si prova, tutte le scelte, tutte delle situazioni particolari sono molto proprio terra, proprio immerse nel mondo, nel quotidiano. Cioè, una situazione del genere, lascia stare che non siamo dei poliziotti, le possiamo vivere delle sensazioni in quelle particolari situazioni. E anche lì un po' estremizzato come concetto. Brutalità, questa violenza verbale, insomma, che tutto il mondo intorno a lui utilizza, è un po' estremizzato, ma in quel contesto è funzionale, ci sta, cioè non l'ho trovato storto, capito? Non l'ho trovato sbagliato, no, l'hai trovato bene, era così, era giusto. La stessa cosa ho provato pure io. Infatti ti dico, per me uno dei momenti più memorabili, per esempio, senza spoilerare, diciamo, è una cosa proprio da parte, perché questa è davvero, non so se l'hai fatta, abbastanza proprio una side quest, si può dire, perché qua la cosa bella è che comunque tutte le quest, si possono dire, qui si chiamano compiti, diciamo, che li trovi a fare, in qualche modo, anche di un po' di un piccolo elemento, convergono tra di loro comunque, cioè non c'è mai, diciamo, la quest che non va per i fatti suoi e che poi non è escluda. Sì, però ci sono delle quest un pochino più davvero satellitari, un pochino più periferiche. Una di queste è quando entro in quella situazione, davvero mi ha toccato molto, una cosa molto piccola, quando devi semplicemente andare a parlare, diciamo, a no, a segnalarmi, mi sfugge la parola, diciamo, a parlare con la vedova del fatto che hai trovato il marito, cioè il fatto che comunque deve andare a parlare, cioè tutto quello che pure questo, un dialogo che puoi tranquillamente che puoi tranquillamente sputtanare, come puoi gestirlo in base anche all'abilità che hai, l'empatia, le altre che hai, gestire in modo giusto, vedi proprio delle reazioni molto realistiche, sia da parte tua di come decidi di gestire, portare il dialogo, sia delle reazioni di questa signora che scopre di essere vedova, diciamo, in qualche modo. E ho trovato davvero pure questo un piccolo momento, cioè davvero un piccolo momento, però ho trovato poetico il fatto che comunque prima di entrare il protagonista è Kitsuragi, si confronta, diciamo, che facciamo, che non facciamo, entrano e c'è per esempio l'empatia che ti dice la suggestione, che viene tradotto come, diciamo, la suggestività, ti dice un pochino, ma sì, prendilo un po' a larga, inizia a parlare un pochino del più e del meno. L'empatia invece dice, no, va diretto, cioè devi che il marito è morto, non ti puoi mettere a parlare a destra. Comunque lo trovo davvero molto, diciamo, incarnato, molto veritiera, molto realistica. E, se devi dire con una parola che ti ha lasciato sto gioco, con una parola. Sì, no, aggiungo una sola all'ultima cosa che hai detto, al fatto che questo è un gioco che non puoi andare dritto sulle quest, cioè tu devi esplorare tutto e parlare con tutti. E tutti hanno una micro storia, no? E queste micro storie, allora lì sta secondo me la qualità della scrittura, che sono tutte sempre contestualizzando nella violenza verbale, nella, nella cattiveria, nel razzismo estremo che comunque poi alla fine è un po' palpabile ma anche contestualizzato. Alla fine ognuno c'ha una storia e ogni storia comunque c'ha qualcosa di toccante, no? In qualche maniera, di poetico, compreso l'anziano, il carabiniere, no? Cioè il tizio che comunque arrabbia, cioè lui vive nei fasti del vecchio impero, eccetera, esatto, eccetera. No, poi alla fine il suo migliore amico era un rivoluzionario, no? E alla fine sì, la cosa che li legava era l'amore per una donna. Cioè, vabbè, ci sono tutta una serie di piccole storie, di micro storie che comunque a volte finiscono bene, a volte finiscono male. A volte non finiscono. A volte non finiscono, esatto, stavo di questo. Comunque, che mi ha lasciato? Concludendo, ti devo dire la verità che sto apprezzando questa deriva di inserire elementi linguistici nei giochi narrativi, come ti ho detto. L'abbiamo visto in The Council, l'abbiamo visto anche in Vampire The Masquerade Swan Song, ma in tanti altri giochi c'è Gerda che devo ancora finire. Anzi, Gerda secondo me prende molto da Disco Elysium, ma con è un bicchiere di vino, un quarto di bicchiere di vino con tanta acqua dentro, perché chiaramente la struttura concettuale di Disco Elysium, secondo me adesso come adesso difficilmente arriveranno dei sviluppatori che così su due piedi devono fare, però comunque questa è la cosa che mi piace di più. E nel trovarmi a cimentarmi in una storia che comunque evolveva insieme a me, quindi con la mia interpretazione ma anche con me come osservatore, ecco, proprio devo dire la credibilità di una storia che è in un mondo che non è manco, no, cioè nel senso che è lontano dal nostro, con contesti sociopolitici abbastanza evoluti anche se molto estremizzati. Cioè è un gioco portato all'estremo però comunque credibile, e questa sua credibilità ha reso i personaggi umani, ed ogni volta che tu percorrevi insieme al tuo personaggio che è una persona alla quale poi alla fine gli vuoi bene, no? Nel senso t'affezioni, no? Perché c'è cazzo, c'è, guarda sto cazzo di Cristo, no? Cioè per esempio dico la prima volta che sono morto per una stupidaggine, perché si muore in questo gioco, si muore morire sia per danni fisici che per danni morali, esatto, proprio questa, esatto, cosa bella, esatto. Gli viene un attacco di cuore praticamente, l'attacco di cuore, esatto, bravo, cioè nel senso che poi alla fine si muore, ma non perché ho detto ci sono i combattimenti, ma per scelte sbagliate, per situazioni, perché ti è andata male in quel momento in cui hai fatto quella cosa, ma magari un'altra volta te lo sarebbe potuto andare bene, no? La prima volta che muore, dice vabbè, quando ti succede magari la seconda volta che stai a ore di gioco, ti viene male, cioè nel senso comunque alla fine ecco, cioè l'immersione, ecco la cosa che mi ha dato, che è la stessa cosa che mi ha dato Fallout 3 in maniera completamente diversa e per motivazioni completamente diverse, la capacità di passare delle ore costantemente all'interno di un contesto narrativo e uscirne immedesimato. Ecco, l'immersione secondo me è la cosa che ha funzionato di più in questo gioco, e le meccaniche secondo me lo hanno aiutato, perché emotivamente che ti ha lasciato, se devi dire una parola, emotivamente cioè che ti ha lasciato a te, lo so che sei arido da sto punto di vista, esprimere ste cose, però ti voglio spingere a dire questo perché sono contento, la contentezza, perché io comunque alla fine l'ho aiutato lui, cioè sei soddisfatto, hai aiutato una povera persona, l'ho voluto salvare, sì, esatto, l'ho salvato perché alla fine era un povero Cristo, cioè poi se tu entri nella sua storia e quindi leggi tutto chiaramente, cioè alla fine è un povero Cristo, c'è un dialogo immaginario che lui fa nella sua mente chiaramente, che è devastante, cioè che se fosse stato vero in qualche maniera lui se lo ricorda così, quindi per lui è vero in quel modo lì, cioè come cazzo fai Sì, ma anche come noi, cioè se noi spesso ci scontriamo, che ne so, faccio l'esempio dei complottisti per dire una cosa estrema, anche per persone che hanno, che ne so, opinioni diverse su di noi su una certa determinata cosa, oppure estremi, persone che proprio stanno male, quindi hanno dei deliri psichici, cioè soffrono di deliri proprio psicotici. Il modo più controproducente che si ha di interagire con altre persone diverse da noi è dire ma che cazzo stai a dire, ma non è vero, ma non vedi, perché per la loro testa, è vera, quella cosa è vera, andandogli a smontare la loro credibilità in qualche modo, si fa al massimo ti manda a fanculo, oppure quella persona ci si può irrigidire sulle sue posizioni. Perché una delle persone non necessariamente le devi, bisogna convincerle a portarle a tu, ma semplicemente scambiare, cercare di capire quello che hanno da dire, cercare di arricchire in qualche modo il discorso. Infine, è la stessa cosa, nella sua testa quelle cose sono vere, chi gli può dire che non è vero, anche se non è così, sono state le sue esperienze tutta. Sì, nello specifico io facevo riferimento a questo dialogo immaginario, cioè non dico altro perché poi magari è uno spoilerone, è una parte anche di ricostruzione della sua memoria, ok? Quindi è proprio il momento più delicato in cui lui alla fine sceglie, e lì la follia, lì c'è la follia, perché nel momento in cui lui ha capito che quello è male, perché è il male che lui sente, eppure decide di affrontarlo ugualmente, e lui si ricorda quella cosa, se la ricorda così o se la sta immaginando così, ovviamente trasfigurando completamente tutto, no? Perché la persona la vede in un altro modo, no? Cioè, nel senso, la definisce in un altro modo. Quindi quello è un momento anche quello, un momento poetico, de grande coraggio. E lì ho detto: cioè, un uomo che va salvato, insomma, in qualche modo. Poi il problema è che tu non sai in realtà quello che succederà nella sua vita, cioè, non lo saprai mai, no? Perché in realtà non è che si conclude evviva, e lui visse altri 30 anni facendo grande carriera a Napoli. Tu non lo sai cosa succederà, tu sai che lui parte per la sua destinazione, qualcuno tra l'altro nella mia storia. E a me non è finita così, però ok. no però vabbè, nel senso che lo portano via, ma anche quella è una cosa di redenzione pure per Cuno, cioè nel senso lo prendono, lo portano proprio per aiutarlo, no? Cioè, in qualche maniera. Quindi ecco, insomma, la contentezza di aver vissuto questa esperienza, sono contento, grazie ai Fregni che non ne faranno più dei giochi così. Questa è la sensazione. Leggo solo un pochino di... A me mi si era bloccata la chat a un certo punto, quindi non sono riuscito a leggere alcune cose. Allora c'è Pixel Debo che dice: ah, ma state qui in live? Sì, stiamo in live. Ciao Deborah. Invece Andrea, antropologo digitale, dice che l'espressione di prima, un gioco da leggere, era molto interessante. Mi sembra che ci sia la possibilità di espandere le regole del gioco e l'aggredita del videogioco contro lo stereotipo per il quale il videogioco invece è un libro chiuso, fisso, in cui non c'è invece una personalizzazione dell'esperienza. È vero, anche se di base il videogioco è già anche un videogioco che ha è molto rigido dal punto di vista narrativo, già comunque c'ha l'elemento che di interpretazione che lo rende comunque diverso rispetto a un film, diciamo, a un altro tipo di elemento. L'elemento tra virgolette interattivo che lo rende un media diverso. Un medio diverso, sì. Però comunque sì, in più c'è sto gioco che diciamo espande ulteriormente la capacità interpretativa di vari estremi. La cosa bella di questo gioco è che spesso diciamo si pensa che per dare varietà, per dare, che ne so, finali alternativi, per dare varietà a un gioco bisogna fare delle scelte. A un certo punto, che se prendi un certo tragitto, ti ritrovi in un posto e fai delle cose, se fai un altro. Mi viene l'esempio di The Witcher 2, in cui a un certo punto devi scegliere per stare con uno che con l'altro, in base a questo ti cambia totalmente un capitolo, è totalmente diverso, tutte sfumature, non sì, capisci per me, quando però, hai intrapreso un certo percorso. Sì, sì, ma questa, quella di The Witcher, questa è quella di dire ok, ti do la massima scelta dandoti varie diramazioni diverse, è una scelta, tra virgolette, non scelta, nel senso che se tu, come dici tu, il gioco te lo giochi una volta, ok, hai avuto quell'esperienza, però in realtà poi per assaporarlo davvero dovresti, cioè tu puoi tranquillamente rigiocarlo e giocare le altre diramazioni. Invece avere una storia che alla fine è lineare, Disco Elysium, cioè alla fine inizia in un modo e finisce sempre più o meno lo stesso, cioè il percorso è lineare, le milestones diciamo sono lineari, ma tutto l'insieme di sfumature e di interpretazione che cambia il senso, e questa per me è vera scelta in un videogioco, è anche quasi la vera scelta ed è la cosa che a me interessa di più, perché comunque che una storia interattiva abbia un inizio simile e un finale anche simile ci sta, perché comunque non è così facile in un gioco come questo con mille sfumature prevedere qualsiasi tipo di possibilità di finale, perché sarebbe inverosimile, no? Come cosa? No, a quel punto preferisco che tu mi racconti la storia per come l'hai immaginata tu, ma che all'interno di questa storia il modo in cui tu conduci la storia e conduci il personaggio è tutta una cosa completamente diversa. E questo secondo me è, secondo me in questo Disco Elysium ha funzionato. Vabbè, io direi, scusate, direi che si è fatta una certa. Saluto, va, sta rotisci tanto. Direi che si è fatta una certa e abbiamo pure abbastanza. È partito, ho visto tipo è partito l'impero della mente che è uscita dalla la mente rettiliana. La mente rettiliana, sì, sì. Il cervello rettiliano che è partito. E direi che abbiamo finito, diciamo, sta chiacchierata, abbiamo detto un po' quello che c'era da dire e, diciamo, come primo esperimento di questo format che voglio dare una continuità, già c'erano in realtà delle altre interviste simili in programma, diciamo, chiacchierate simili in programma con dei giocatori su un gioco per capire cosa hanno lasciato, cosa hanno rappresentato, perché proprio quel gioco, eccetera, eccetera, diciamo che è fin da qua. Quindi se gente che è qui, diciamo, che in diretta un pochino ha seguito, diateci dei feedback, gente che eventualmente avrà il coraggio diateci, che eventualmente vorranno, diciamo, la vedranno in differita. L'Out 3 io ritorno volentieri. No, ne parliamo. Che gente invece che in differita, stessa cosa, fatemi sapere. Io ringrazio e saluto Simone, dici dove ti possiamo trovare, quello che fai. Allora, runtimeradio.it per ascoltare la radio, le live, per esempio venerdì sera alle ore 23 saremo in Runtime by Night, quindi accendete, magari non dormite, accendete internet, runtimeradio.it, il play, fate play e ce ne ascoltate, se no su Spreaker, spreaker.com, cercate Runtime Radio, lo trovate come publisher e sotto trovate una sfilza infinita di podcast che facciamo e tra storici e, insomma, e nuovi ancora aggiornati, insomma, quindi questo è quello che facciamo, un network di podcast oramai da 10 anni e più, insomma, abbastanza consolidato. E, quindi io chiuderei qua e quindi ti saluto, Simone, grazie di aver partecipato, grazie. E rinnovo, diciamo, per chi è ancora in diretta adesso, che domani ci sarà un'altra diretta, diciamo, come ho anticipato nelle storie sti giorni, io voglio fare due tipi di diretta, ho programmato questo qui che sia quello un po' più particolare, quindi nelle cervella di un gamer, e poi altre invece delle dirette un pochino più canoniche, diciamo, con esperti, diciamo, con altri, quindi colleghi, psicologi, antropologi, e ce n'è uno in diretta in cui si parlerà di varie tematiche di interesse psicologico e non consigli e altro. Quindi domani già ci sarà un'altra, la prima di questo tipo di dirette, saremo con Marco Lazzari a parlare di adolescenti e videogaming, praticamente lui è tra gli autori di questo documento che è stato presentato in Senato per far vedere che, diciamo, la realtà dei videogiochi, che cosa sono i videogiochi, che impatto hanno sugli adolescenti, è diverso, diciamo, dal quadro che era stato sottolineato dall'ex senatore Cangini quasi un annetto fa. È, diciamo, è stato un documento molto importante che riassume molti studi per dire, oh, sì, perfino sociologi, come mi specificano qua. Quindi l'appuntamento qui è per domani con Marco Lazzi per adolescenti videogaming, invece per nelle cervelle di un gamer, mi scordo pure io come mi chiamo le stesse cose che creo, sarà per la prossima puntata. Sarà forse per la prossima puntata, forse meglio, c'era nella prossima, sarà per la prossima settimana, solo un pochino da organizzare perché forse è saltata sta cosa, quindi devo vedere come riorganizzare sta cosa. Ciao. Ci siamo visti. Buonasera a tutti. Bella, ciao. Grazie per averci seguito. Per stasera è tutto. Ludico Forum vi augura buonanotte.